Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se hai sale in zucca, riduci la tavola e aggiungilo alla vita. Buongiorno da Nicoletta Carbone, uno slogan che scelgo come titolo della puntata di oggi, ma che faccio diventare anche la sfida che vi lancio e che non durerà lo spazio di una giornata, ma un mese intero. Io vi accompagnerò giorno dopo giorno. Ma è tempo di partire. Quanto è salata la vostra vita? Semina e Celentano usano il sale come metafora. Noi oggi parliamo del sale, quello che aggiungiamo per dare sapore ai piatti o che introduciamo senza neppure rendercene conto con molti di alimenti che fanno parte della nostra dieta quotidiana. La nostra alimentazione è oggi decisamente salata, ma non è sempre stato così. L'uomo preistorico, che era cacciatore e raccoglitore, mangiava frutti, vegetali freschi e prodotti della caccia e della pesca che consumava subito, così come li trovava. Questi alimenti al naturale contengono tutti pochissimo sale. Quando l'uomo è diventato pastore, pescatore, agricoltore, si è trovato nella necessità di conservare la carne, i pesci, il latte e le verdure e ha scoperto il sale. Col tempo, l'uomo ha preso gusto al sapore che il sale dà ai cibi. Il gusto per il salato è diventato pressoché universale. Solo pochissimi popoli che vivono come i primitivi, in aree remote del pianeta, non conoscono l'uso del sale nell'alimentazione. Oggi, nella maggior parte dei paesi del mondo, il consumo di sale si aggira in media intorno agli 8-10 grammi al giorno. Da niente a troppo. Intanto saluto il professor Giuseppe Remuzzi, che è qui in studio con me, coordinatore dell'Istituto del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Professor Remuzzi, quasi senza accorgercene, pizzico dopo pizzico, siamo arrivati a trasformare il sale da alleato del sapore a fattore di rischio per la nostra salute. Sì, in realtà noi non siamo fatti per prendere tanto sale, eppure il sale è diventato per l'uomo moderno una cosa preziosa. Salario si chiamava il compenso dei legionari romani e via Salaria è quella che era tracciata dai romani per arrivare al mare Adriatico, dove avveniva il commercio di sale. Però noi non siamo fatti, l'abbiamo sentito nella bellissima scheda introduttiva, che non siamo fatti per avere tanto sale. Il rene regola la quantità di sale, di sodio. Il sale è fatto di cloruro di sodio e quello che crea problemi a noi, che dobbiamo eliminare, è il sodio. Noi siamo fatti per trattenere il sodio quando i livelli nel sangue sono troppo bassi, questo lo fa il rene, ed eliminare tutto il sodio che abbiamo in eccesso. Il sodio in eccesso non va bene perché il sodio trattiene nel torrente circolatorio, cioè nelle arterie e nelle vene, l'acqua, e allora tanta acqua vuol dire troppo volume, vuol dire che il cuore fa fatica, vuol dire che le arterie si induriscono, vuol dire pressione alta. Una persona che sta perfettamente bene e che ha dei reni normali ed è giovane è in grado di eliminare il sodio tranquillamente. Il problema è diverso quando l'età va su, se uno ha il diabete, se c'è insufficienza renale. E quindi il rene poi alla fine rimane affaticato, ma non solo il rene, lei ha citato anche il cuore. Parte tutto dal rene, perché è il rene questo che regola tutto e regola naturalmente la quantità di sodio. Ci piace molto questo. Parte tutto dal rene, quelli che studiano l'ipertensione, i cardiologi dicono che l'ipertensione dipende dal cuore, non è affatto vero, non credeteci, il cuore è vittima dell'ipertensione perché il rene non è capace di eliminare il sodio. Tra l'altro l'eliminazione del sodio è un processo abbastanza complesso, perché prima lo filtriamo, poi lo riassorbiamo, poi lo eliminiamo ancora. Che fatica. E tutto questo avviene attraverso delle pompe. Tutte queste pompe sono regolate da geni che delle volte non funzionano. Allora il 20% della popolazione, per esempio, ha delle alterazioni in questi geni che regolano le pompe attraverso cui eliminiamo il sodio. Ecco, questi non sono capaci di eliminare il sodio che introduciamo, e allora per loro si dice che poi diventano ipertesi sensibili al sodio. Per loro eliminare il sodio è davvero un problema. Il loro rene ha un difetto nella capacità di eliminare il sale. Quindi, professor Remuzzi, sintetizzando, un pizzico in meno per tanta salute in più. È magnifico, questo è veramente un titolo bellissimo di questa trasmissione. E continuerà, abbiamo un progetto per voi, ne parleremo nel corso della trasmissione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una riduzione del sale, professor Remuzzi. Ne mangiamo troppo. In realtà ne mangiamo troppo, noi arriviamo a prendere 8-10 grammi di sale, ne basterebbe 1,5. Accontentiamoci di riuscire a ridurre i livelli di sale che introduciamo tra i 3 e i 5 grammi, questo sarebbe già un risultato meraviglioso. E sul progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità, la riduzione del sale compare proprio come uno degli obiettivi cardine della prevenzione cardiologica associata allo stile di vita. Sul sito Progetto Cuore ci sono dei materiali che io vi invito ad andare a vedere. Noi abbiamo dato voce ad un'animazione che in immagine potete trovare sul sito Progetto Cuore. Allora, signore e signori, amici di Essere Benessere, ecco a voi Salino. Limitare il sale fa bene a tutti, non solo a ipertesi e malati di cuore. Dimezzando la quantità di sale introdotta in Italia, si potrebbero evitare fino a 26.000 morti all'anno per infarto e ictus, che sono circa 5 volte i morti causati dagli incidenti stradali. E allora ribadisco, un pizzico in meno per tanta salute in più. È in linea con noi per rafforzare questo messaggio il dottor Luigi Palmieri del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dottore, il vostro progetto prevede dei veri e propri interventi di comunità, così li chiamerebbe un esperto di sanità pubblica. Nel 2007 il Ministero della Salute ha avviato i lavori per un accordo, poi siglato nel 2009, con i produttori di pane. Ci racconta che cosa avete stabilito? Sì, nell'ambito del programma Guadagnare Salute del Ministero della Salute è stato siglato un accordo con i panificatori sia a livello industriale che a livello artigianale per diminuire il contenuto di sale del 15% entro il 2011. Si tratta di una diminuzione minima che praticamente non verrà assolutamente percepita a livello di gusto, ma sicuramente è importante per prevenire molti eventi di infarto e ictus. Inoltre, nell'ambito proprio del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità, stiamo valutando i principali fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione adulta italiana ed in particolare il consumo di sale in collaborazione col professor Strazzullo dell'Università Federico II di Napoli. Lo studio è stato completato in circa la metà delle regioni italiane e tuttora in corso, quindi non sono stati ancora pubblicati i dati, però le posso anticipare che dai dati preliminari il consumo medio giornaliero di sale nella popolazione adulta è risultata circa di 11 grammi negli uomini e 8 grammi delle donne, ben oltre il livello che ha già richiamato il professore precedentemente, ben oltre quel livello di 5 grammi, 3-5 grammi raccomandato dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi lei ci ha dato un'anticipazione e la ringrazio, perché noi siamo sempre contenti di avere le informazioni prima. Sono dati preliminari, però. Però intanto noi ce li abbiamo. Diciamo. Senta, dottore, il 15% di sale in meno sembra pochissimo, ma può permettere proprio di ottenere grandi risultati. In base a quale principio? Certo, raggiungere il livello raccomandato appunto di 5 grammi di consumo di sale al giorno consente di ridurre la pressione arteriosa mediamente dai 6 agli 8 mm di mercurio. Consideri che la pressione arteriosa purtroppo è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare e quindi può capire quanto sia importante in termini proprio di eventi risparmiati o evitato raggiungere questo semplice obiettivo di salute. Mi piace sottolineare un dato che è stato già anticipato da Salino, sì. Che se noi tutti riducessimo della metà il nostro consumo di sale giornaliero, potremmo evitare fino addirittura 26.000 decessi per infarto ictus nella popolazione, e questo indipendentemente dal fatto di essere ipertesi o meno. E come diceva appunto il nostro Salino, considerate che gli incidenti stradali sono solo, mortalità per incidenti stradali è circa 5 volte di meno rispetto a questa cifra. Dottore, quando noi diciamo una fetta di pane, diciamo cosa sarà mai, ma nel corso della giornata di fette di pane, panini, sbocconcelli togliamo il pane, il tramezzino, ne mangiamo parecchia, per cui l'Italia inizia dal pane. Diciamo di sì, perché il pane è un alimento di base che utilizziamo tutti giornalmente. Consideri che mediamente, diciamo così, per voler quantificare, una fetta di pane può contenere quasi, insomma, poco meno di mezzo grammo di sale, e noi di fette di pane tra pranzo, cena e altri alimenti ovviamente ne consumiamo molte di più di una fetta. Ci scrive Mariella da Firenze: quanto è buono il nostro pane senza sale, il pane toscano, il pane sciapo. Certo, guardi, le dico, abbiamo fatto uno studio solo sulla mortalità un po' di anni fa per regione, e abbiamo visto nelle regioni Toscana e Umbria mortalità per ictus specifico, e abbiamo visto che le regioni Toscana e Umbria, in cui il consumo di pane sciapo è molto diffuso, c'è un livello mediamente più basso rispetto a tutte le altre regioni. Certo, loro poi hanno anche altre cose molto più appetitose, molto più ricche di sale, come vari patè di fegato, queste cose qua. Però devo dire, si aiutano con un pane povero di senza sale. Infatti, si deve cercare di risparmiare dove si risparmia. Piccole quantità, piccoli cambiamenti, ma diffusi, e quindi diciamo così, che diventano sistematici nella giornata, permettono grandi risparmi. Nel mio piccolo, diciamo così, io ho imparato a cercare di aggiungere meno sale nell'acqua della pasta, cercare di evitare crackers, patatine fritte, snack salati e soprattutto cibi pronti o conservati. Le verdure soprattutto sarebbe meglio consumarle fresche. Noi siamo un paese fortunato da questo punto di vista, perché abbiamo i mercatini, abbiamo disponibilità di frutta e verdura. Lei pensi che un etto di fagioli freschi o secchi, sì, non lavorati, contiene circa 13 mg di sale. Lo stesso etto, ma conservato in scatola, ne contiene più di 1100, quindi ben 100 volte in più della quantità che si potrebbe consumare. Quindi meditate, gente, meditate e riducete. Dottor Palmieri, grazie, io vi rimando a Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie e buona giornata. Grazie anche a voi, arrivederci. Professor Remuzzi, la riduzione del sale quindi ha effetti evidenti, come abbiamo citato, sulla riduzione della pressione. Ma in quanto tempo? Il problema della riduzione del sale è un problema che noi ci dobbiamo porre nel tempo. Non è che riducendo il sale per 3 giorni risolviamo il problema. Pian pianino il nostro organismo si adatta a un regime diverso di sale. I vasi arteriosi e venosi non sono più riempiti in modo eccessivo, come quando abbiamo un eccesso di volume che il rene non riesce ad eliminare. Ricordiamoci che questo si applica soprattutto alle persone che hanno più di 50 anni, che hanno il diabete, che hanno qualche grado di insufficienza renale, che hanno lo scompenso cardiaco, che hanno delle malattie del fegato. Una persona normale ha un rene che riesce ad arrangiarsi da solo nell'eliminare il sale, ma se noi è una questione di abitudine, dal momento che il sale e il gusto salato è una cosa che poi noi ci portiamo per sempre, se noi cominciamo a abituarci pian pianino a ridurre la quantità di sale, quando poi avremo bisogno di averlo di meno, saremo in grado di farlo più facilmente che non se ci venisse imposto come se fosse un farmaco nel momento in cui abbiamo qualche problema. Professore, però la pressione può essere abbassata anche attraverso l'attività fisica e con la diminuzione di peso. Riusciamo a fare una comparazione tra l'effetto sulla pressione prodotto dalla diminuzione del sale e quello indotto invece dalle altre due strategie, attività fisica e diminuzione? Ma guardate, se uno diminuisce il consumo di sale ai livelli raccomandati, abbiamo detto tra 3 e 5 grammi di sale, noi riduciamo la pressione, abbiamo sentito prima dal professore, fino a 8 mm di mercurio di sistolica e probabilmente 3-4 di diastolica. Sembra poco, ma l'equivalente sulla funzione del cuore e di vari organi è quello di uno che dimagrisce di 10 kg o che cammina 30 minuti al giorno tutti i giorni. Ecco, quindi, questo questa è una bella notizia per i pigri. È assolutamente una bella notizia per i pigri. Non vuol dire che non ci si debba muovere, il movimento fa comunque molto bene, perché poi muovendosi uno su elimina sodio anche attraverso delle vie al di fuori del rene. Però certamente questo fa vedere quanto noi non ci rendiamo conto dell'importanza di ridurre un pochino, perché poi si tratta di ridurre un pochino, non di eliminare la quantità di sale, e di fare delle scelte accurate con gli alimenti. Allora, un pizzico in meno, tanta salute in più, sarà un tormentone, perché io voglio proprio farlo diventare uno slogan di prevenzione. E dalla teoria, professore, passerei all'azione. Direi, misuriamo la pressione oggi, e da oggi sul nostro sito e sul nostro profilo Facebook, partendo dalla trasmissione, naturalmente vi daremo un consiglio per rendere la vostra alimentazione meno salata. Fra un mese ci risentiremo, misureremo la pressione, e se ci atterremo ai consigli che verranno forniti per noi dagli esperti del Mario Negri, il risultato dovrebbe essere garantito. Quindi voi potete andare oggi, sentitevi la puntata, poi avrete dei consigli ogni giorno, li metteremo naturalmente sul nostro sito, con un pizzico in meno, tanta salute in più. Se però voi avete paura di dimenticarvi, di quindi di perdere il consiglio del giorno che vi accompagnerà per 30 giorni e poi vi misurerete la pressione, mandateci un'email a esserebenessere@radio24.it e noi vi manderemo una mail tutti i giorni per ricordare il compito della giornata. Professore, quindi Mario Negri in prima linea. Beh, proviamo, vediamo se è come fare un esperimento in un certo senso, vediamo prima e dopo e vediamo quello che succede con la misura della pressione nei nostri radioascoltatori dopo che hanno seguito, speriamo, i consigli di Nicoletta. E intanto io chiedo subito ai nostri ascoltatori di candidarsi chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, perché prenderemo una coppia di ascoltatori, li sottoporremo ad un test per valutare le conoscenze sul contenuto di sale di alcuni alimenti, e chi l'ascoltatore che risponderà alle domande potrà ricevere a casa il consiglio di lettura, che oggi è un libro particolarmente interessante che vi daremo nel corso della trasmissione. Quindi fidatevi, 800 24 00 24. Abbiamo Davide che ci chiama da Treviso. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno. Io in realtà, innanzitutto complimenti per la trasmissione. In realtà vi chiamavo per i miei due bambini. Ho una figlia di 6 anni e un figlio di 4. Sì. Tutti e due, presumo che sono altamente sopra i 10 grammi, per semplice motivo che, ma l'ho notato anche nella casa di alcuni amici, che i bambini tendono a mangiare sale anche così. Cioè, mio figlio ad esempio ogni tanto passa davanti al sale e lo prenderebbe così, e cerco di farlo sparire il sale, però la realtà è che, e a casa in realtà cerchiamo anche di stare attenti, come ho detto, è una cosa naturale, o che i bambini necessitano proprio sale in quantità industriale, oppure è proprio un'abitudine, no? Perché poi quando noi siamo abituati ad un sapore lo ricerchiamo. No, è soltanto un'abitudine, e se il bambino si abitua al gusto salato poi cerca il gusto salato. Ripeto, i bambini non hanno problemi, il loro rene è in grado di eliminare tutto il sale che introducono. Il problema è che se si abituano al gusto salato, poi quando dovessero avere problemi, allora è più difficile che loro riescano a ridurre la quantità di sale una volta adulti, o una volta che questo sia necessario farlo per altre ragioni. Quindi bisogna, senza drammatizzare, perché non è un problema per i bambini, però è certamente un problema di abitudine. Noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati. Poi andiamo a sentire le previsioni del tempo e poi ritorniamo di nuovo insieme. Mi raccomando, candidatevi per il nostro test sul contenuto di sali in 4 coppie di alimenti. 800 24 00 24. Siamo anche su Facebook e naturalmente messaggi ne stanno arrivando tanti, li leggerò. 349 238 6666. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Siamo tornati insieme. 800 24 00 24, questo è il numero verde per intervenire in diretta, per parlare di sale. Quanto è salata la vostra vita? Quanto è salata la vostra dieta? 349 238 6666, se volete invece mandarci un messaggio. Noi oggi stiamo infatti andando a caccia di sodio, che come sappiamo è contenuto soprattutto nel sale e negli alimenti salati, ma entrerei nel dettaglio con una scheda dell'INRAN, l'Istituto Nazionale per la Ricerca sull'Alimentazione e la Nutrizione. Più della metà, 54%, è contenuto nei cibi conservati e precotti. È quello utilizzato nella preparazione industriale. Quello presente nei cibi freschi è molto meno, circa il 10%. Quello aggiunto quando si cucina o in tavola è circa il 36%. Secondo stime della Commissione europea, il sale presente nei cibi industriali o consumati fuori casa arriva a più del 75% e quello aggiunto nelle preparazioni domestiche è solo il 10% circa. Ma concretamente, per visualizzare, no, la quantità di sale che possiamo aggiungere, dobbiamo tenere anche presente la quota che introduciamo con alimenti già salati o nei cibi in scatola. Quanto dobbiamo mettere da parte? Che, non so, un cucchiaino, mezzo cucchiaino? Buongiorno alla dottoressa Manuela Abbate, nutrizionista al Mario Negri di Bergamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi ci muoviamo e con i consigli degli esperti del Mario Negri, tra cui la dottoressa Manuela Abbate, ogni giorno per un mese daremo indicazioni ai nostri ascoltatori sul profilo Facebook, sul sito di Essere Benessere, via mail per chi vorrà invece ricevere il consiglio quotidianamente nella sua posta elettronica. Basta scriverci a essere benessere@radio24.it e noi siamo qui per voi. Dottoressa Abbate, ma concretamente cerchiamo di visualizzare la quantità di sale permessa, quella da aggiungere, che dobbiamo distribuire, non so, sull'insalata, nelle pietanze, aggiungendo all'acqua della pasta? Beh, in realtà sarebbe il meno possibile. Se facendo un'analisi di una dieta qualsiasi che non abbia una dieta che magari possa contenere fette biscottate al mattino, cereali al mattino, quindi comunque gli alimenti, i carboidrati di cui generalmente facciamo uso, che possono contenere sale, che però non abbia nessun tipo di sale aggiunto a tavolo durante la cottura, si raggiungono anche i 2,5 grammi di sale al giorno. Che sono, quindi, prendendo un cucchiaino da caffè, quanto è? 5 grammi di sale al giorno sono un cucchiaino da tè, quindi sì, un cucchiaino da caffè è una metà. Sì, e quindi noi è quello che ci possiamo permettere? No, quello, il cucchiaino da tè è quello che ricaviamo se analizziamo la dieta, la dieta giornaliera senza usare il sale, quindi neanche un mezzo cucchiaino. Quindi proprio poco, non ne dobbiamo. Sì, pochissimo. Non ci fate aggiungere neanche dei pizzichini. Pochissimi pizzichini possono essere aggiunti durante la cottura della pasta, nell'acqua, ovviamente se non usiamo sale nel condimento, sì. Però voglio dire, ci sono tantissime alternative al sale, il succo di limone, le spezie, il pepe e poi, come diceva il dottore Muzzi precedentemente, è anche un fatto di abituarsi. Ecco, di perché noi continuiamo, cerchiamo di educare il nostro gusto a ricercare meno sale e ci siamo dati tempo un mese per vedere anche quanto questa riduzione possa influenzare la nostra pressione arteriosa, ma noi in circa 2 settimane scopriremo nuovi sapori, dottoressa Abbate. È proprio così. Infatti, bastano 2 settimane, bastano, ragazzi. Bastano 2 settimane, quindi 2 settimane di pazienza e poi alla 3ª settimana magari possiamo già accorgerci che qualcosa che prima mangiavamo con gusto adesso non ci piace più. E quindi ci saremo a quel punto abituati ad una dieta con meno sale. Intanto io cerco i 2 ascoltatori disposti a mettersi in gioco con il nostro test sul contenuto di sale in 4 coppie di alimenti. Il vincitore, l'ascoltatore che risponderà a più risposte esatte, potrà ricevere a casa il libro Perché mangiamo troppo e come fare per smetterla. Ma intanto io ho molti ascoltatori a cui voglio dare voce. Inizierei da Sergio, che ci chiama da Cremona, all'800 24 0024. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, la mia domanda è questa: sentendo i professori che diceva la quantità di sale aggiunta nella pasta, metterne il meno possibile. Io faccio molte verdure al vapore devo dire che nell'acqua ne metto parecchio, perché penso che naturalmente prima di giungere alla verdura insomma c'è dello spazio. Non lo so, devo diminuire anche lì? Allora, dottoressa Abbate, Sergio sta già facendo una buona, no? Una buona scelta, cuocere le verdure al vapore, le verdure fresche, quindi già rispetto alle verdure in scatola prende le verdure fresche che hanno un meno contenuto di sale. Però, ok, benissimo. Diamo un'indicazione che valga per tutti, suggerita da Sergio. Quindi lui mi sta chiedendo se può se va bene insomma continuare ad aggiungere il sale nella pasta quando nelle verdure al vapore. Nelle verdure fresche al vapore il contenuto di sodio può essere da 0 anche 1 a 70 mg, quindi veramente veramente poco. A quel punto dipende ovviamente anche dal resto della sua alimentazione, non possiamo solamente concentrarci sull'orario di pranzo, dobbiamo anche vedere certo. cosa mangia a colazione. Però Sergio, Sergio che risparmia già con le verdure, che sono verdure fresche, soprattutto verdure di stagione, noi non vogliamo farvi fare delle scelte costose, vogliamo cercare di arricchire la nostra dieta di alimenti che possa accessibile a tutti, perché la spesa lo sappiamo costa, e quindi di fare quelle scelte intelligenti sia nel contenuto di sale sia anche intelligenti e risparmiose. Io ad esempio, Sergio, uso molto la vaporiera che uso spesso, cucino lì dal pesce alle verdure e nell'acqua del vapore metto le spezie, le erbe aromatiche e ogni tanto cerco di individuare anche questo saporino che le erbe e le spezie regalano alle verdure, alla carne. Gioco un po', mescolo, faccio degli intrugli. Intanto abbiamo Marta da Modena. Buongiorno Marta. Buongiorno. Io telefono perché ho saputo da una mia amica che sta facendo una dieta per dimagrire che il medico le ha detto che assolutamente deve prendere almeno 3 grammi di sale al giorno. Lei lo aveva eliminato in quanto soffre di cellulite da anni ed erano quindi anni che non usava più il sale. E poi il suo medico gli ha detto lo aggiunga. Professor Remuzzi, ha fatto bene questo medico? La signora si era quasi, tra virgolette, disintossicata dal sale, perché la cellulite fa miracoli, eh? Noi per la cellulite siamo disposti a tutto, a togliere il sale, ad andare in palestra, per cui a questa parola tutti gli ostacoli cadono. Professor Remuzzi. Beh, non fatemi dire che il suo medico ha fatto male se non sappiamo tutta la storia, se non sappiamo perché. Io credo che in generale se la signora è sovrappesa è sovrappeso potrebbe avere una condizione di rischio per la pressione alta e quindi in generale faceva bene lei a mangiare poco sale. Diciamo che queste raccomandazioni che abbiamo fatto dei limiti entro cui dobbiamo stare con il sale valgono certamente anche per l'amica della nostra ascoltatrice che comunque non dovrebbe aggiungere sale certamente a quello che cucina. Professore, a proposito di sale, adesso c'è un po' la moda, no? Di questi sali strani, ma questa è materia del mio amico Davide Paolini, che penso al tema abbia dedicato una bella puntata, quindi cercatevela nell'archivio se siete dei gourmet, dei buongustai. Invece, professor Remuzzi, con lei vorrei parlare del sale iposodico, che viene da molti vissuto come un'alternativa al sale. Devo ridurre il sale, allora uso questo che magari fa meno male. Che cos'è il sale iposodico? E può essere un'alternativa? Può essere un escamotage per continuare a salare senza avere i danni del sale? Ma in realtà viene presentato come un'alternativa. Il principale sostituto del sale da cucina è il cloruro di potassio. Anziché contenere sodio, contiene potassio che non ha tutti gli effetti negativi del sodio sulla pressione, però ha un sapore amaro. Allora quello che viene fatto è quello di mescolare un po' di cloruro di sodio con il cloruro di potassio. In realtà tutte le persone che avrebbero bisogno di ridurre il sale sono anche persone per cui l'eccesso di potassio nel sangue può essere pericoloso, perché sono persone in sovrappeso, sono diabetici, sono cardiopatici, normalmente hanno insufficienza renale o sono anziani. Quindi in realtà, nonostante il potassio sia per noi un elemento fondamentale, è molto meglio prenderlo dalla frutta e dalla verdura che non dai sali di potassio. Quindi io direi che l'unica indicazione ci potrebbe essere forse per persone che hanno un'ipertensione cosiddetta essenziale con la funzione renale perfettamente normale, quindi eliminano tutto il potassio che introducono. Questo però è una categoria così ristretta di persone e anche per loro alla fine è più semplice prendere frutta e verdure, ridurre la quantità di sodio, che io penso davvero si possa dire che non c'è sostanzialmente indicazione per questi sostituti del sale che contengono potassio. Un sms di Luca per la dottoressa Abbate. Ci scrive Luca: adesso mi faccio un bel branzino in crosta di sale, rischio? È amante del rischio Luca, dottoressa Abbate? Beh, sicuramente se cuoce il branzino nel sale, il sale andrà poi a mangiarlo. Quindi sì, è amante del rischio, però con la cottura al sale si riducono molto i grassi, i condimenti, giusto? Sì, certo, questo è anche vero. Allora, a Luca, che naturalmente ha mandato questo messaggio provocatorio, già che noi parliamo di sale, io consiglio una bella cottura al cartoccio. E poi Luca naturalmente può fare come vuole, può anche ricevere le nostre indicazioni quotidiane per cercare di ridurre la sua pressione, ma magari Luca è assolutamente perfetto. Franco da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Laura. Io le volevo chiedere, soffro di ipertensione 170 sugli 85-90 e come terapia io faccio l'ipotensivo la mattina, ma mi trovo in strada e non riesco a ricordare il nome, la formula. Sì. Le chiedevo, però prendo anche il mattino una compressa di diuretico, che mi lascia una certa fiacca, non so se è quello o meno. La domanda è questa: io, a me piace mangiare salato, però per esempio nelle insalate mi piace. Devo dire la verità anche a me, ma da oggi cercherò di comportarmi bene. Ma infatti io cerco, per esempio, l'insalata la metto molto aceto e passa, nella carne metto molte spezie e passa, e il limone e non serve. Però la domanda mia è questa: il diuretico con la dieta iposodica va d'accordo? Questa fiacca che ho perché sudo molto, può essere, ecco, io ho dei limiti diversi per salare o meno, visto che mi piace. Grazie, mi sa Franco che il professor Remuzzi le dirà riduca il sale, ma prima della risposta del professor Remuzzi noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e torniamo subito dopo insieme con i due candidati che ci sono, li abbiamo forse già in linea, tra poco. E dopo la viabilità, subito la risposta al nostro ascoltatore di Bologna, in terapia antipertensiva, sì, a malsale. Sì, ma noi non vogliamo essere... E prende un diuretico. Allora, il diuretico abbassa la pressione eliminando il sodio e l'acqua, aiutando il rene di chi è iperteso ad eliminare più sodio e più acqua. Allora, in linea di massima, prendere il diuretico e prendere il sale è una contraddizione, conviene eventualmente ridurre la quantità di diuretico. Questa fiacca potrebbe essere anche un segno di un'eccessiva quantità di diuretico. Se prende anche un altro ipertensivo, questo è possibile. Si tratta di sentire il proprio medico che gli darà il consiglio giusto. Breaking news. È stato appena annunciato il premio Nobel per la chimica 2010, va a tre scienziati: Richard Eck dell'Università del Delaware negli Stati Uniti, Eiichi Negishi dell'Università dell'Indiana, sempre negli Stati Uniti, e Akira Suzuki dell'Università di Sapporo in Giappone. E allora, vedi, tutte le cose importanti capitano tra le 11 e mezzogiorno. Allora, bentornati e benvenuti ai nostri due ascoltatori candidati al test di oggi. Sono Claudio e Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Claudio, mi faccia sentire la sua voce? Pronto, eccoci. Ecco, Claudio, Francesco? Sì, buongiorno, ecco. Siete pronti? Allora, io vi darò quattro coppie di alimenti. Voi dovete dirmi quale dei due contiene più sale. La dottoressa Manuela Abbate ci dirà quale dei due, poi dopo le vostre risposte, contiene più sale e noi procediamo. Chi guadagna il più punti riceve a casa perché mangiamo troppo e come fare per smetterla. Allora, parto, eh. Salmone affumicato verso parmigiano. Claudio? Parmigiano. Francesco? Parmigiano. Dottoressa Abbate? Purtroppo hanno sbagliato entrambi, è il salmone. E vai, perché? Quanto ne contiene? Il salmone contiene 1880 mg ogni 100 grammi, invece il parmigiano 775. Allora, 0-0. Seconda coppia, sardine in scatola verso Crescenza. Claudio? Sardine in scatola. E Francesco? Sardine in scatola. Dottoressa Abbate? Giusto. Allora, Un punto a parità. Terza coppia, cracker normali, quindi salati, verso prosciutto cotto. Claudio? Prosciutto cotto. Per Claudio il prosciutto cotto e per Francesco? Prosciutto cotto. Per la dottoressa Abate? Il prosciutto cotto contiene più sale dei crackers. Allora siete a parità, speriamo, nella quarta coppia. Pecorino verso olive verdi. Cosa mi dice Claudio? Pecorino. Cosa mi dice Francesco? Olive verdi. Dottoressa Abate? Ha ragione Francesco, olive verdi. Allora Francesco, che ha risposto a più domande esatte, intanto io ringrazio anche Claudio. Claudio, anche lei era messo bene. Arrivederci. Complimenti, se vuole ci scriva esserebenessere@radio24.it, le manderemo a casa i consigli per ridurre il sale. Francesco invece riceve a casa il consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, Francesco riceverà a casa il libro dal titolo Perché mangiamo troppo e come fare per smettere. In collaborazione con IBS.it. Professor Remuzzi, abbiamo pochi minuti, il tempo vola, ma io vorrei anche chiederle, per ridurre il contenuto di sodio, di sale, insomma, è utile scegliere acqua con basso contenuto di sodio, le acque iposodiche? In realtà questo concetto delle acque con più o meno contenuto di sodio è basato un po' su degli aspetti commerciali, perché la quantità di sodio che c'è nell'acqua è irrilevante. Pensate che per raggiungere la quantità di sodio che uno ha in un panino al prosciutto dovrebbe bere 50 litri d'acqua, quindi in realtà non è un problema il sodio contenuto nell'acqua. Allora, noi oggi vogliamo iniziare a ridurre, no, il sale. Lo facciamo però gradualmente, senza, perché se ci mettiamo degli obiettivi troppo difficili, poi li molliamo alla strada. Allora, professor Remuzzi, usiamo il buon senso, il sale in zucca, no? Certamente. In generale, qualche regola di buon senso. Abbiamo detto sicuramente il pane, preferiamo il pane senza sale. Se possiamo, questa è un'ottima regola. Gli alimenti, noi dovremmo privilegiare il consumo di alimenti freschi. Gli alimenti si possono cucinare riducendo un pochino la quantità di sale che noi aggiungiamo. Pane, crackers, grissini hanno poco sale, ma dipende da quanto ne mangiamo. Se riduciamo un po', riduciamo anche il sale. È molto importante evitare o limitare gli alimenti confezionati industrialmente, perché quelli davvero sughi pronti, cibi in scatola, condimenti e dati contengono tantissimo sale. I legumi freschi o secchi contengono pochissimo sale. E quello che possiamo raccomandare ancora è etichette, guardate quanto sale c'è, tenete conto che il sale c'è anche in alimenti che non ci aspetteremmo, per esempio i cereali che mangiamo al mattino, la pizza è buonissima, fa benissimo, contiene un sacco di sale, non vuol dire che non dobbiamo mangiare la pizza tutti i giorni non va bene. Se entriamo nell'ordine di idee di ridurre un po' il sale, scegliamo le pizze con le verdure che per esempio hanno meno sale. Io voglio salutare il mio amico Andrea Ribaldone, che è chef stellato del ristorante La Fermata e autore con Paolo Reversi del libro Cuoco in Famiglia, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Andrea, ciao! Ciao a tutti, grazie, sì, di essere con voi. Senti Andrea, tutti dicono aggiungi le erbe aromatiche così non metti tanto sale. Vabbè, però da te voglio qualcosa di più, perché questo lo so dire anch'io, no? Allora, sì, però la cosa è difficile, perché noi abbiamo un minuto. Allora, le erbe sono sicuramente qualcosa di utile e valido per ridurre il sale. Tenete presente che in bocca i sapori che noi sentiamo sono salato, dolce, acido. Quindi possiamo per certi versi disorientare il nostro palato e diminuire il sale, aumentare leggermente l'acidità, quindi magari un po' più di limone, un po' più di aceto per dare gusto alle nostre pietanze. Possiamo anche magari marinare, mettere a bagno magari, non lo so, la carne o il pesce in queste sorte di marinate che si insaporiscono e poi subito, no? Diventano benissimo, più... Questa è proprio l'idea vincente, proprio quella di una marinata che abbia una leggera nota acida, chiaramente non prevaricante, ma che poi in bocca è piacevole, quindi ci aiuta a diminuire la parte di sale. Senti, quando si parla di erbe aromatiche che danno sapore, noi magari sbagliamo il momento della cottura e le infiliamo, magari le aggiungiamo troppo presto, troppo tardi. Qual è il momento migliore per fare sprigionare tutto l'aroma e quindi tenerci indietro di sale? L'abitudine è sempre quella di mettere all'inizio cottura, sempre alla fine quando sono ancora, quando abbiamo finito quasi a togliere dalla fiamma, quando abbiamo finito la cottura le aggiungiamo o sminuzzate o intere, in modo che non abbiamo la nota amara che avremmo cuocendole per magari ore, ma soltanto la nota aromatica, la nota profumata. Allora, sul nostro sito da oggi consigli, tra l'altro Andrea Ribaldone ha una ricetta, un consiglio per chi vuole evitare il sale, la ricetta la trovate sul nostro sito da oggi pomeriggio insieme ai consigli degli esperti del Mario Negri che vi accompagneranno per tutto il mese per ridurre con buon senso il sale e quindi vivere meglio. Un pizzico in meno, tanta salute in più, grazie al professor Remuzzi, alla dottoressa Abate e ad Andrea Ribaldone. Buona giornata domani. Essere e benessere.